Capitolo 48. Altre penne trattino del peccato e della desolazione. Lascio questi argomenti detestabili appena mi è possibile, impaziente di ricollocare tutti quelli che non sono troppo colpevoli personalmente in una tollerabile condizione di equilibrio spirituale e di far punto su tutto il resto. Per quel che riguarda la mia Fanny, ho in verità la soddisfazione di supporre che in quel periodo sia stata felice a dispetto di tutto. Deve essere stata una creatura felice, nonostante quanto provava o credeva di provare, partecipando alla desolazione di quelli che la circondavano. Aveva motivi di letizia che non potevano non imporlesi. Era di ritorno a Mansfield Park, era utile, le volevano un gran bene, era al sicuro da Mr. Crawford e quando Sir Thomas era tornato, aveva ricevuto da lui ogni prova, pur nello stato di depressione in cui si trovava, che egli poteva darle della sua totale approvazione e della sua aumentata considerazione. Ma anche se tutte queste cose la rendevano felice, felice sarebbe stata anche senza di esse, poiché Edmund non correva più il rischio di essere ingannato da Miss Crawford. È vero che Edmund da parte sua era molto lontano dalla felicità, soffriva di delusione, di rimpianto, provava dolore per ciò che era e desiderava ciò che non poteva essere. Lei sapeva che le cose stavano così e se ne rattristava, ma quel suo rattristarsi aveva un tale sottofondo di appagamento, posava sulla pace dello spirito, era così in armonia con ogni suo più caro sentimento che poche persone non sarebbero liete di scambiare la loro più grande gioia con una siffatta malinconia. Sir Thomas, povero Sir Thomas, genitore desolato e conscio degli errori commessi proprio in quanto genitore, fu quello che soffrì più a lungo di tutti. Capiva che non avrebbe dovuto permettere alla figlia quel matrimonio, che i sentimenti di Maria gli erano stati così sufficientemente evidenti da renderlo complice nell'averlo autorizzato, che così facendo aveva sacrificato ciò che è giusto a ciò che conviene e che si era lasciato governare dall'egoismo e da motivi di saggezza puramente mondana. Queste erano riflessioni la cui amarezza richiese un certo periodo di tempo per mitigarsi. Ma il tempo tiene quasi ogni cosa, e benché da parte di Mrs. Rushworth gli venisse così poco conforto a mitigare la desolazione che aveva cagionato, a poco trovò soddisfazione maggiore di quanto aveva creduto fosse possibile nei suoi altri figlioli. Il matrimonio di Giulia riuscì meno disastroso di quanto egli avesse supposto a tutta prima. Giulia si era riaccostata alla famiglia in tutta umiltà, desiderosa di essere perdonata, e Mr. Yates, che ambiva ad essere veramente accolto a Mansfield Park, era disposto a dimostrare al suocero una grande considerazione e a lasciarsi guidare da lui. Non che fosse di carattere molto fermo, ma c'era speranza che con l'andar del tempo diventasse meno frivolo, o perlomeno che si dimostrasse abbastanza disposto a condurre una vita domestica moderatamente tranquilla. E in ogni modo, c'era la soddisfazione di aver scoperto che il suo patrimonio era più consistente di quanto Sir Thomas avesse pensato e i suoi debiti assai minori di quanto avesse temuto, e quella di essere da lui consultato e considerato come l'amico più autorevole e degno di fiducia. Anche Tom, che andava recuperando gradatamente la salute, senza tornare alla stoltezza e all'egoismo dei tempi passati, incoraggiava Sir Thomas ad aprire il cuore alla speranza. Era guarito per sempre dalla malattia e grazie alla malattia. Aveva sofferto e aveva imparato a riflettere, due cose che non gli erano mai accadute prima. E i rimproveri che si faceva nascevano da quanto era avvenuto a Wimpole Street e di cui si sentiva in parte responsabile. Ripensando a tutta la pericolosa intimità derivata da quella sua assurda infatuazione per la recita. E l'impressione che ne ricevette, a 26 anni, con l'aiuto del buon senso di cui era dotato e delle buone compagnie, ebbe effetti positivi e durevoli. Diventò quale doveva essere, utile al padre, costante e tranquillo e non più dedito a vivere unicamente per se stesso. In questo vi era veramente motivo di conforto e proprio mentre Sir Thomas cominciava a contare su queste consolanti prospettive, Edmund contribuiva alla pace interiore del padre, riscuotendosi dalla depressione che tanta ansietà gli aveva cagionato e mostrando di giorno in giorno sintomi di miglioramento. Dopo aver trascorso l'estate in vagabondaggi senza meta, sedendo la sera sotto gli alberi in compagnia di Fanny, si era così compiutamente sfogato a furia di parlare, da ritrovare, oltre a una calma rassegnazione, un po' dell'antico buon umore. Questo fu l'evolversi della situazione, queste le speranze che gradualmente portarono sollievo a Sir Thomas, attenuando i suoi rimpianti per quanto era andato perduto e riconciliandolo in parte con se stesso. Ma l'angoscia che nasceva dalla convinzione di aver commesso gravi errori nell'educazione delle figlie gli rimase per sempre nel cuore. Troppo tardi si era reso conto di quanto avesse loro nuociuto l'opposto trattamento che Maria e Giulia avevano sempre ricevuto in casa, dove l'eccessiva indulgenza e la costante adulazione della zia era stata in continuo contrasto con la severità paterna. Ora vedeva quanto avesse errato nel credere di poter contrastare e controbilanciare quel che non andava nell'atteggiamento di Mrs. Norris, con un atteggiamento contrario suo, e vedeva chiaramente che con esso aveva solamente accresciuto il danno, insegnando alle figlie a reprimere in sua presenza ogni spontanea manifestazione, tanto da mascherargli la loro vera indole, e lasciando che si rivolgessero per ogni indulgenza a una persona che aveva saputo legarle a sé unicamente con il proprio cieco affetto e l'eccesso delle lodi tributate in ogni circostanza. La direzione impressa a quell'educazione era stata pessima, ma per quanto cattiva fosse stata, gradualmente egli giunse alla convinzione che la più grave pecca non era consistita nel piano di educazione esteriore. Qualcosa doveva essere venuto a mancare interiormente, se il tempo non aveva modificato gradualmente molti dei cattivi effetti. Egli temeva che i principi attivi, fossero venuti meno e che alle figlie non fosse mai stato appropriatamente insegnato a governare le proprie inclinazioni e gli umori passeggeri, inculcando loro quel senso del dovere che è di per sé guida sufficiente. La loro educazione religiosa era stata puramente teorica, ma mai si era loro richiesto di applicare i principi della religione nella pratica quotidiana. Il fatto che sapessero distinguersi per l'eleganza e per i talenti acquisiti, poiché era questo l'obiettivo proposto e autorizzato nei loro giovani anni, non poteva aver esercitato un'utile influenza in quel senso, né aver avuto alcun impatto morale sulla loro indole. Aveva voluto che fossero ineccepibili, ma le sue cure si erano rivolte alla cultura e ai modi, non alle tendenze. E di quanto fossero necessari l'altruismo e l'umiltà, temeva non avessero mai udito parlare da labbra da cui potessero trarre insegnamento. Amaramente deplorava una deficienza che ora gli appariva inconcepibile, quasi non riusciva a capire come fosse stata possibile. Desolatamente sentiva che con tutte le spese e le cure di una minuziosa e costosissima educazione aveva cresciuto le figlie senza che esse comprendessero i loro essenziali doveri e senza che lui fosse edotto del loro vero carattere e della loro genuina indole. Lo spirito audace e le forti passioni di Mrs. Rushworth specialmente gli si rivelarono solo quando li vide in atto. Per quanto si sforzasse e insistesse, il padre non riuscì a indurla a lasciare Mr. Crawford. Sperava di sposarlo e continuarono a vivere insieme finché la delusione e la disperazione nata da tale convinzione non resero il suo carattere così insopportabile e i suoi sentimenti verso di lui così vicini all'odio che per un certo tempo divennero l'uno per l'altra un reciproco castigo, questo finché decisero volontariamente di separarsi per sempre. Aveva vissuto con lui per sentirsi rinfacciare di essere stata la rovina di ogni sua sperata felicità con Fanny e lasciandolo non portò con sé migliore consolazione del sapere almeno che era stata lei a dividerli. Cosa potrebbe oltrepassare la miseria di una simile mente in una situazione come la sua? Mr. Rushworth non ebbe difficoltà a ottenere il divorzio e così finì un matrimonio contratto in circostanze tali da far disperare che la buona fortuna gli garantisse una fine migliore. Fin dai giorni del fidanzamento, Maria aveva disprezzato il suo futuro sposo e aveva amato un altro uomo e lui, Mr. Rushworth, si era reso perfettamente conto di questo stato di cose. Ma le umiliazioni inflitte alla stupidità e le delusioni di una passione egoista possono suscitare ben poca compassione. La punizione di lui fu il corollario della sua condotta, mentre un ben più grave castigo fece seguito alla più grave colpa della moglie. Una volta sciolto dall'impegno, restò mortificato e sconfitto, in attesa che una qualche altra graziosa ragazza riuscisse a indurlo nuovamente alle nozze e lui potesse tentare un secondo e si spera più felice esperimento matrimoniale. Più felice, almeno nel senso che se doveva essere abbindolato, lo fosse perlomeno con grazia e senza catastrofi. Lei, invece, in preda a sentimenti infinitamente più esacerbati e violenti, si trovò esiliata, isolata, fatta segno di una riprovazione che non preludeva certo a una rinascita spirituale. Come e dove sistemarla divenne oggetto di tristissime e urgenti consultazioni. Mrs. Norris, il cui affetto sembrava aumentare con i demeriti della nipote, avrebbe desiderato che venisse accolta nella casa paterna e sostenuta da loro tutti. Sir Thomas non volle sentirne parlare e l'ira di Mrs. Norris contro Fanny crebbe ancora di più, benché Sir Thomas le assicurasse con la massima solennità che anche se non fosse stato necessario tener conto del rispetto dovuto a una fanciulla e anche se non vi fosse stata in famiglia nessuna persona giovane dell'uno e dell'altro sesso che potesse essere messa in difficoltà dalla presenza di Mrs. Rushworth o danneggiata dal suo esempio, egli non avrebbe mai inferto al vicinato l'insulto di chiedere che la accettassero con deferenza. Come figlia, figlia pentita, lo sperava, l'avrebbe protetta, le avrebbe garantito ogni possibile agio, le avrebbe dato ogni possibile sostegno e incoraggiamento affinché seguisse il retto cammino, tutto questo entro i limiti concessi dalle reciproche situazioni. Ma più in là di questo non volle andare. Maria aveva distrutto la propria reputazione ed egli non voleva, nel vano tentativo di porre riparo a quello che il riparato non poteva essere, dare la sua sanzione al vizio. O cercando di attenuarne la vergogna, contribuire in qualche modo a introdurre nella famiglia di un altro la stessa disgrazia che aveva conosciuto la sua. Alla fine fu deciso che Mrs. Norris lasciasse Mansfield per dedicarsi alla sua sfortunata Maria e si sistemasse con lei in una casa sita in un'altra parte del paese. Una casa remota, appartata, dove confinate insieme, con poca compagnia, nessun affetto da una parte, nessun buon senso dall'altra, si può ragionevolmente supporre che il loro carattere inasprito si trasformasse in reciproco castigo. L'allontanamento di Mrs. Norris da Mansfield fu per Sir Thomas un altro grande conforto. La sua stima per lei era andata diminuendo fin dal giorno in cui era tornato da Antigua. Da allora in poi, nei loro contatti quotidiani, trattando d'affari o più semplicemente conversando, Mrs. Norris aveva sistematicamente perso terreno nella stima di lui, convincendolo che il tempo l'aveva molto cambiata in peggio o che lui in passato aveva considerevolmente sopravvalutato il senno della cognata e ne aveva sopportato i modi con più che singolare pazienza. La sua continua presenza gli riusciva insopportabile, tanto più insopportabile in quanto aveva tutta l'aria di dover durare a vita. Gli sembrava che Mrs. Norris facesse parte integrante di Mansfield, di se stesso, e perciò dovesse essere tollerata per sempre. L'essersene liberato fu perciò una tale fonte di soddisfazione per lui che se essa non si fosse lasciata dietro così amari ricordi, Sir Thomas avrebbe quasi corso il rischio di imparare ad accettare il male che era fonte di tanto bene. A Mansfield nessuno la rimpianse. Non era mai stata capace di farsi voler bene, nemmeno da quelli che amava di più, e dal momento della fuga di Mrs. Rushworth era stata così continuamente tesa e irritata da rendersi insopportabile dappertutto e con tutti. Nemmeno Fanny ebbe lacrime per la zia Norris, neanche quando se ne fu andata per sempre. Che Giulia ne venisse fuori meglio di Maria fu dovuto in buona parte alla diversità dell'indole e delle circostanze, ma principalmente all'essere stata meno della sorella, prediletta dalla zia, di essere stata meno adulata e meno viziata. La sua bellezza e le sue doti erano state relegate sempre in secondo piano. Da sempre era abituata a ritenersi un tantino inferiore a Maria. Il suo carattere era per natura il più facile dei due e le sue reazioni, benché impulsive, più facilmente controllabili. Infine, l'educazione della zia non le aveva dato un così dannoso concetto della propria importanza. Delle due sorelle, era Giulia che aveva meglio sopportato la delusione cagionata da Henry Crawford. Passata la prima amarezza, nata dalla convinzione di venir messa da parte, aveva risolto di non pensare più a lui. E quando l'avevano incontrato in città e la casa di Mr. Rushworth era diventata l'obiettivo di Crawford, aveva avuto il merito di allontanarsene e di cogliere quell'occasione per fare una visita ad altri suoi parenti, mettendosi così al sicuro da una pericolosa attrazione. Era stato questo il motivo per cui si era recata dai cugini. Mr. Yates non aveva avuto nulla a che fare con la cosa. Aveva permesso le attenzioni di lui già da qualche tempo, ma senza alcuna intenzione di accettarlo come marito. E se non fosse esploso lo scandalo della sorella, accrescendo in lei il terrore che le ispiravano il padre e la casa paterna, dove, immaginava, le sicure conseguenze dovute a quella circostanza sarebbero state una maggior costrizione e severità nei suoi riguardi, non si sarebbe risolta precipitosamente ad evitare, a qualunque rischio, gli orrori che incombevano su di lei, ed è probabile che Mr. Yates non avrebbe mai ottenuto il suo consenso. Era fuggita con lui sotto l'impulso di una egoistica preoccupazione, non di sentimenti peggiori. Le era sembrata l'unica via di uscita. La colpa di Maria aveva indotto lo stolto gesto di Giulia. Harry Crawford, guastato dalla precoce indipendenza finanziaria e dai cattivi esempi dell'ambiente in cui era cresciuto, si era abbandonato per troppo tempo ai ghiribizzi. In una sola occasione, una svolta imprevista di un'indole vana e sostanzialmente insensibile e immeritata gli aveva fatto imboccare la via che conduce alla felicità. Se avesse potuto appagarsi di aver conquistato l'amore di una donna degna di essere amata, se avesse potuto scoprire un trionfo abbastanza grande nel vincerne la riluttanza, nel conquistare a poco la stima e nel meritare la tenerezza di Fanny Price, con ogni probabilità egli avrebbe fatto una buona riuscita. E avrebbe conosciuto la felicità. Il suo amore aveva già incominciato ad operare. L'influenza che Fanny esercitava su di lui già gli aveva dato una certa influenza su di lei. Se avesse saputo meritare di più, non v'è dubbio che di più avrebbe ottenuto, specialmente quando fosse stato concluso quell'altro matrimonio che, oltre ad avvicinarla a lui, poiché la sua delicata coscienza le avrebbe imposto di soffocare i suoi sentimenti per Edmund, avrebbe dato luogo ai più frequenti contatti. Se egli avesse perseverato onestamente, Fanny sarebbe stata la sua ricompensa, una ricompensa concessa volontariamente dopo un ragionevole intervallo dal matrimonio fra Edmund e Mary. Se avesse agito come ne aveva avuto l'intenzione da prima e come sapeva che avrebbe dovuto fare, se fosse andato a Everingham dopo aver lasciato Portsmouth, avrebbe potuto decidere felicemente il proprio destino. Ma era stato sollecitato a fermarsi per essere presente al ricevimento di Mr. Fraser. Avevano dato alla sua partecipazione una lusinghiera importanza e sapeva che vi avrebbe incontrato Mrs. Rushworth. La curiosità e la vanità unirono le loro complici sollecitazioni e la tentazione offerta da un piacere immediato era troppo forte per una mente non usa a compiere il benché minimo sacrificio in nome del dovere. Decise di rimandare il viaggio nel Norfolk. Si convinse che lo scrivere avrebbe raggiunto ugualmente lo scopo che si era prefisso, o che d'altronde raggiungerlo non aveva soverchia importanza, e così era rimasto. Aveva visto Mrs. Rushworth ed era stato accolto da lei con una freddezza che avrebbe dovuto respingerlo e innalzare per sempre fra di loro un muro di apparente indifferenza, ma si era sentito mortificato. Non aveva tollerato di venir messo da parte da una donna i cui sorrisi erano stati completamente al suo comando. Doveva darsi da fare per vincere una così altera dimostrazione di risentimento. Nasceva dalla collera, e il motivo della collera era Fanny. Doveva averne la meglio, doveva costringere Mrs. Rushworth a trattarlo come lo trattava Maria Bertram. In questo spirito egli cominciò il suo attacco, e con fervore e perseveranza ristabilì ben presto il genere di rapporto fatto di galanterie, di corteggiamento che si era proposto e che non pensava di portare oltre, ma nel trionfare sulla discrezione di lei, cosa che, benché nata dalla collera, avrebbe potuto salvarli ambedue, aveva scatenato da parte di Maria sentimenti più forti di quanto avesse supposto e che gli si imposero. Maria lo amava, era impossibile negarle le attenzioni che ella apertamente dimostrava esserle care. Così Crawford si trovò impigliato nella rete della sua propria vanità, senza la possibile scusante di essere innamorato anche lui, e senza sentirsi minimamente colpevole per la sua incostanza nei confronti di Fanny. Mantenere Fanny e i Bertram all'oscuro di quanto avveniva diventò il suo principale obiettivo, e la segretezza non poteva essere meno desiderabile per la buona reputazione di Mrs. Rushworth, di quanto lo fosse per la sua. Quando tornò da Richmond, sarebbe stato lieto di non incontrarla più. Tutto quello che seguì fu dovuto all'imprudenza di lei e alla fine egli si adattò a partire con lei perché non poté farne a meno. rimpiangendo Fanny fin dal primo momento, ma rimpiangendola infinitamente di più quando tutta l'agitazione nata dall'intrigo si fu esaurita e pochissimi mesi gli ebbero insegnato, con l'evidenza del contrasto, a dare un ancor più alto valore alla mitezza della sua indole, alla purezza della sua mente, all'eccellenza dei suoi principi. Che il castigo, il pubblico castigo del disonore, dovesse in uguale misura toccare a lui per la parte avuta nell'offesa, non è, lo sappiamo, una delle barriere che la società innalza a sostegno della virtù. In questo mondo la pena è meno proporzionale di quanto sarebbe desiderabile, ma senza voler presumere di prevedere un più giusto rendiconto nell'aldilà, possiamo, con buone probabilità di non andare errati, presumere che un uomo capace di una certa obiettività, qual era Harry Crawford, avesse messo in serbo per sé non poco tormento e non pochi rimpianti. Tormento che a volte doveva portarlo a rimproverare se stesso. Rimpianto sentito fino alla disperazione, con l'aver così male ricompensato l'ospitalità, così gravemente offeso la pace familiare, tradito la fiducia dei suoi amici migliori, più stimabili e affezionati. E così stoltamente perduto la donna che aveva razionalmente e appassionatamente amato. Dopo quanto era venuto a ferire e ad alienare le due famiglie, la continuazione della permanenza dei Bertram e dei Grant in una così stretta vicinanza sarebbe stata estremamente penosa. Ma l'assenza dei primi, protratta volontariamente per alcuni mesi, sfociò fortunatamente nella necessità, o perlomeno nella possibilità di un trasferimento definitivo. Il dottor Grant, grazie all'interessamento di qualcuno in cui aveva quasi smesso di sperare, ottenne la successione di un seggio canonico nell'abbadia di Westminster, che offrendogli l'opportunità di lasciare Mansfield, gli permise di stabilirsi a Londra con un aumento di entrata che veniva molto opportunamente incontro alle spese del trasloco. Questa soluzione riuscì graditissima sia a quelli che se ne andavano, sia a quelli che rimanevano. Mrs. Grant, dotata di un'indole affettuosa e atta a ispirare affetto, certo si allontanò con rimpianto dai luoghi e dalle persone cui si era abituata, ma con un temperamento come il suo, ogni altro luogo, ogni altro gruppo di persone le avrebbe dato moltissimo da godere. Non solo, ma l'avere nuovamente una casa da offrire a Mary significava molto per lei. Quanto a Mary, nel corso degli ultimi 6 mesi aveva troppo ben conosciuto sue vecchie amicizie e vissuto i traumi della vanità, dell'ambizione e della delusione, e sentiva ora il bisogno del caldo affetto della sorella e dei suoi modi pieni di tranquillo buonsenso. Vissero insieme e quando il dottor Grant morì di un colpo apoplettico, dopo aver partecipato a 3 grandi banchetti ufficiali in una sola settimana, continuarono a vivere insieme. Poiché Mary, pur decisissima a non innamorarsi più di un figlio cadetto, impiegò molto tempo per trovare fra i brillanti parlamentari o gli sfaccendati eredi presuntivi che faceva la corte alla sua capricciosa bellezza e alle sue 20.000 sterline di dote, qualcuno che potesse soddisfare il gusto più sicuro, ma difficile, che aveva acquistato a Mansfield. Qualcuno il cui carattere e i cui modi potessero autorizzare la speranza di una felicità domestica che laggiù aveva imparato ad apprezzare, e tale da farle uscire sufficientemente dal capo Edmund Bertram. Da questo punto di vista, Edmund aveva avuto su di lei un grande vantaggio. Non aveva dovuto aspettare e desiderare col cuore vuoto un oggetto degno e meritevole di succederle. Aveva a malapena smesso di rimpiangere Mary Crawford e di ripetere a Fanny quanto era impossibile che egli incontrasse mai un'altra donna come lei, quando lo colse un dubbio. Che forse un tipo di donna completamente diverso avrebbe potuto fare altrettanto bene o infinitamente meglio al caso suo. Si chiese allora se la stessa Fanny non stesse diventando per lui tanto importante e tanto cara, con tutti i suoi sorrisi e i suoi modi quieti, quanto era stata Mary Crawford, e se poteva essere una possibile e fattibile impresa persuaderla che il suo caldo e fraterno affetto per lui era una base sufficiente per l'amore coniugale. Mi astengo di proposito dall'indicare date precise in tutto questo svolgimento di fatti, lasciando ciascuno libero di fissare quella che crede, conscia che la guarigione delle invincibili passioni e il trasferimento dell'amore intramontabile da una persona a un'altra debbono necessariamente variare molto, quanto al tempo richiesto da individuo a individuo. Solo supplico ciascuno di credere che esattamente quando fu del tutto naturale che ciò avvenisse, e non una sola settimana prima o dopo, Edmund cessò di amare Miss Crawford e diventò tanto ansioso di sposare Fanny quanto la stessa Fanny poteva desiderarlo. Con un sentimento quale in realtà egli da tanto tempo nutriva per lei, fondato sui più teneri appelli di una creatura innocente e poi sulle rassicuranti promesse di una crescente virtù, cosa poteva essere più naturale di questo cambiamento? Aveva continuato ad amarla, a guidarla, a proteggerla, fin da quando era una bimba di 10 anni. La mente di lei era stata quasi totalmente formata dalle sue cure e il di lei benessere era dipeso dal suo affetto. A lei andava il suo vigile speciale interesse e gli era resa ancora più cara da tutta l'importanza che egli, più di chiunque altro a Mansfield, aveva ai suoi occhi. Cosa vi era ormai da aggiungere se non che doveva imparare a preferire miti occhi chiari e splendenti a splendenti occhi bruni? E poiché Edmund era continuamente in compagnia di Fanny e sempre le parlava confidenzialmente, poiché i di lui sentimenti si trovavano esattamente in quelle favorevoli condizioni che una delusione recente suole produrre, a quei miti occhi chiari non doveva occorrere molto tempo per essere preferiti. Una volta così incamminato sulla via della felicità, una volta resosene conto, nessun motivo ispirato a prudenza poté fermare o rallentare il suo progresso, nessun dubbio circa quanto ella meritasse. Nessun tema di gusti contrastanti, nessun bisogno di escogitare improbabili motivi di felicità da un contrasto fra le loro indoli. La mente di lei, il carattere, le opinioni, le abitudini non richiedevano di venire viste solo a metà. Nessun autoinganno nel presente, nessuna necessità di contare su miglioramenti nel futuro, perfino nel bel mezzo della sua passata infatuazione. Egli aveva riconosciuto la superiorità intellettuale di Fanny. Come doveva giudicarla ora? Naturalmente era troppo buona per lui, ma siccome a nessuno rincresce di ottenere ciò che è troppo buono, Edmund si mise ben presto a inseguire ardentemente l'ambita realizzazione. E non era possibile che l'incoraggiamento da parte di lei dovesse farsi attendere a lungo. Per quanto fosse timida, ansiosa, dubbiosa, era tuttavia impossibile che una tenerezza come la sua non le presentasse in alcuni momenti il miraggio di una grande speranza, anche se doveva lasciare in serbo per un momento futuro la gioia di rivelargli tutta la deliziosa, sbalorditiva verità. La felicità di Edmund nell'apprendere di essere stato così a lungo prediletto da un simile cuore fu certo abbastanza grande da suggerirgli le più ardenti parole con cui esprimerla a lei e a se stesso. Era certo una felicità deliziosa. Ma vi era in quell'altro cuore una felicità indescrivibile. Nessuno presuma di saper descrivere i sentimenti di una giovane donna. Nel ricevere la dichiarazione di un amore che quasi non si era permessa di sperare, avendo accertato la loro inclinazione reciproca, non vi furono difficoltà da superare, nessun ostacolo frapposto dalla povertà o dal paterno divieto. Era un matrimonio che i desideri di Sir Thomas avevano perfino anticipato. Nauseato dai parentadi ambiziosi e interessati, giunto ad apprezzare sempre più il bene genuino dei buoni principi e di un buon carattere, e soprattutto ansioso di garantirsi quanto gli restava della sua felicità domestica, aveva ponderato con intima soddisfazione sulla probabilità che i due giovani cugini e amici trovassero mutua consolazione l'uno nell'altra per tutto quanto di deludente avevano vissuto. E il gioioso consenso dato a Edmund, che sollecitava la sua approvazione, l'esaltante certezza che gli era toccata una grande fortuna nell'avere in Fanny una figlia, era in esatto contrasto con il suo passato timore in proposito, quando la venuta della povera bambina era stata discussa. Uno di quei mutamenti che il tempo è solito portare con sé, sovvertendo i piani e le decisioni dei mortali, per loro ammaestramento e per divertimento dei vicini. Fanny era in verità la figlia di cui egli aveva bisogno. L'affettuosa benevolenza con cui l'aveva trattata l'aveva ripagato con una consolazione di cui non avrebbe potuto fare a meno. La sua liberalità era stata riccamente ricompensata e la bontà del suo modo di agire verso di lei lo meritava. Certo, avrebbe potuto rendere più felice l'infanzia di Fanny, ma era stata solo un errore di giudizio che lo aveva indotto a una certa asprezza e l'aveva privato dell'amore di lei quando era ancora bambina. Ora che si conoscevano veramente, il loro mutuo legame divenne fortissimo. Dopo averla insediata a Thornton Lacey, provvedendo con affettuosa premura ad ogni suo agio, l'impegno di quasi ogni giorno fu per Sir Thomas di andarla a trovare là o di portarsela a Mansfield. Lady Bertram, che da così lungo tempo l'aveva egoisticamente cara, non poteva certo lasciarla andare via volentieri. Il pensiero della felicità del figlio o della nipote non bastava a farle desiderare quel matrimonio. Tuttavia le fu possibile separarsi da lei perché Susan rimaneva per prenderne il posto. Susan divenne la nipote sempre disponibile, felicissima di esserlo e adattissima alla situazione, grazie alla sua vivacità di spirito e a una naturale propensione a rendersi utile, che bilanciavano la mitezza dell'indole e il forte sentimento di gratitudine di Fanny. Susan era indispensabile, prima come sostegno e conforto di Fanny, poi come sua collaboratrice e infine come sua sostituta. Si sistemò a Mansfield con l'apparenza di restarvi stabilmente come la sorella. Il suo temperamento più intrepido e i suoi nervi più saldi le resero ogni cosa facile. Dotata di rapida intuizione dei caratteri delle persone con cui doveva trattare e priva di ogni forma di timidezza che inibisse i suoi giusti desideri, fu ben presto la benvenuta e si rese utile a tutti. E dopo il trasloco di Fanny, succedette così naturalmente all'opera di lei nel vigilare ogni ora sul benessere della zia, da diventare gradualmente forse la sua preferita. Nella utile presenza di Susan, nell'eccellenza di Fanny, nella costante buona condotta di William e nella sua crescente reputazione, nel generale buon comportamento e successo degli altri membri della famiglia Price, che tutti si aiutavano gli uni con gli altri a progredire e ad affermarsi e che davano credito al favore e all'aiuto dello zio, Sir Thomas vide ripetersi e moltiplicarsi i motivi di rallegrarsi per quanto aveva fatto per loro. E di riconoscere i vantaggi derivanti dall'aver appreso per tempo i disagi della vita, il senso della disciplina e la consapevolezza dell'essere nati per lottare e sopportare. Con tanto vero merito e vero amore e nessuna mancanza di mezzi o di amici, la felicità dei cugini sposi deve apparirci tanto sicura quanto può esserlo la felicità umana. Ambedue, fatti per la vita domestica e amanti dei piaceri della campagna, la loro casa fu la casa dell'affetto e del benessere. E per completare il quadro felice si aggiunse l'entrata in possesso della canonica di Mansfield grazie alla morte del dottor Grant, che avvenne dopo che erano stati sposi per abbastanza tempo da desiderare un aumento di rendita e dal giudicare incresciosa la lontananza della casa paterna. Traslocarono dunque a Mansfield e la canonica, alla quale al tempo dei suoi due precedenti occupanti Fanny non aveva mai saputo avvicinarsi senza una qualche penosa sensazione di ritegno o di allarme, presto divenne così cara al cuore e così perfetta ai suoi occhi come ogni altra cosa, in vista e sotto l'egida di Mansfield Park, era sempre stata per lei. Fine.